L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, l'Europa che vive, la cultura europea, opportunità anche che arrivano dall'Unione. Come sempre potete interagire con noi attraverso i social network, Facebook, le nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, oppure Twitter, @FedericoTaddia, l'account social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Svezia. Sono i Donce Interna, rock band svedese. Questo, il titolo di questo pezzo è Giorno di ogni santi. Perché? Perché parliamo di Halloween e non siamo in ritardo, però, anche se Halloween quest'anno ha invaso di fatto la cultura europea, anche fatti tragici. Quello che è successo a Madrid lo sappiamo tutti, ma non solo, si è scatenata una sorta di follia collettiva, questo rave party globale, così è stato definito. Però a fianco a questo si è scatenata anche una nuova forma di turismo quest'anno, il turismo cimiteriale. Questo tour nei cimiteri più importanti d'Europa è diventata veramente una nuova tendenza. A Stoccolma, in Svezia, tutto ciò viene festeggiato oggi perché la notte dei santi, la notte dedicata ai defunti, viene celebrata il primo sabato di novembre. E a Stoccolma c'è un'attività particolare, una sorta di visita guidata a un cimitero storico, e questa visita guidata è stata ideata da un italiano che vive a Stoccolma da qualche anno, fa la guida turistica e si è inventato appunto questo viaggio notturno all'interno di un cimitero dal nome impronunciabile. Diamo il benvenuto a Leonardo Fusè. Ciao Leonardo. Ciao Federico, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Intanto dici subito il nome di questo cimitero, che dalla descrizione sembra un luogo impronunciabile. È impronunciabile, si infatti dice... Sono tre parole, Skogskyrkogården, vuol dire il cimitero nel bosco. Mm-hmm. Un cimitero storico che ci puoi descrivere? Sì, il cimitero è stato progettato intorno agli anni 10 ed è stato concluso all'inizio degli anni 20 da un architetto che poi è diventato famoso, è un architetto tra i più importanti del funzionalismo svedese, che è Gunnar Aslund. Ed è stata proprio la prima volta che si cerca di trasformare un paesaggio naturale in un cimitero, ed è per questo che nel 1994 è diventato patrimonio dell'UNESCO. Sono 100 ettari di bosco, praticamente sono tutti pini, messi più o meno anche in ordine adesso, dove ci sono 100.000 lapidi, e quindi un cimitero piuttosto enorme. È un cimitero dove ci sono anche alcune colline, anche alcune spianate, poi ovviamente c'è anche una cappella, una chiesetta e anche un crematorio, diciamo. Ed è bello soprattutto oggi perché ci saranno veramente 100.000 persone, tutte silenziose, che si muoveranno in questo cimitero all'oscurità, dove tutti lasceranno delle candele sulle diverse tombe delle loro care, e quindi questo cimitero, questo bosco assume veramente un fascino completamente particolare. Immagino, tu insieme ad alcuni amici hai fondato questa agenzia di viaggio, stoccolmaviaggi.it, per avere le informazioni. Come ti è venuta l'idea di trasformare il cimitero in luogo di meta turistica? Beh, sai, Stoccolma è una città bellissima, il turismo funziona tanto, soprattutto d'estate. Questo è un mese che possiamo definirlo proprio, scusa il gioco di parole, un mese morto, e quindi bisogna anche un po' inventarsi qualcosa di creativo. E poi io sinceramente sono qua da 12 anni e gli italiani che vedevo, che vivono con me, anche loro in genere un giro al cimitero lo fanno, anche se poi magari non hanno nessuno con cui dove lasciare dei fiori oppure una candela. Tutti rimangono comunque estasiati. È una cosa che se vivi a Stoccolma lo sai, che è una giornata dove non puoi non andare al cimitero. E Leonardo, quindi questa sera sarai lì al cimitero, hai trovato qualche turista desideroso di fare questo? Sì, siamo in quattro persone, siamo io più altre due coppie che mi hanno contattato. Ieri abbiamo fatto la visita classica di Stoccolma, quindi il centro storico più il museo più importante di Stoccolma, dove viene conservato il vascello d'Asa, l'unico vascello che abbiamo in tutto il mondo del 1600, che è praticamente intatto, sembra quasi varato ieri in un certo senso. E oggi l'incontro verso le 5:30, prendiamo la metropolitana, andiamola a Siena, perché il cimitero è grande, appunto bisogna anche un po' conoscerlo per sapersi orientare, per non perdersi, perché poi anche notte è buio e non è facile ritrovare la strada. Immagino. Per la metropolitana. Leonardo, tu hai conosciuto Stoccolma nel 1998 durante l'Erasmus, poi 4 anni dopo hai deciso di far diventare Stoccolma la tua casa. Come mai questa scelta? Sì, guarda, io sono venuto come storico, ho fatto la laurea in storia all'Università di Milano nel 2002, e lo sai anche te che in tutto sommato noi umanisti di sbocchi professionali ne abbiamo pochissimi. A Stoccolma o comunque in Svezia almeno per 5 anni in più sono riuscito a fare un dottorato di ricerca in ambito storico, poi anche ho studiato storia della famiglia, quindi anche registri parrocchiali con i registri di morte e di sepoltura. E da lì poi tutto è finito all'università e ho pensato che comunque è possibile continuare a raccontare la storia, a parlare di storia, a parlare di cose interessanti ai turisti. Ed è bellissimo perché non hai problema di dare voti, di compilare i registri, di bocciare anche gli studenti. Tutti diciamo che vengono promossi durante le visite turistiche e tutti si divertono perché sono in vacanza. Mi sembra un'ottima motivazione. Stoccolmaviaggi.it è il sito per tutte le informazioni. So che dirti buona serata può avere un sapore macabro, però insomma ti auguro un buon lavoro per questa notte. Come si chiama? Hai detto la notte, non è la notte di Halloween, ha un nome particolare questa sera? No, è la notte di tutti i santi, la chiamano anche qua. Cosa strana, perché poi essendo un paese protestante di santi non ne hanno, però la chiamano ugualmente il giorno di tutti i santi. Una strana contaminazione di questa cultura europea che ci piace raccontare. Ciao Leonardo, grazie. Va ancora. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie. Europost-it. Segni di infanzia. A Mantova il teatro per bambini parla anche d'Europa. Il Festival Internazionale d'Arte e Teatro Segni d'Infanzia, che si svolgerà dall'8 all'11 novembre a Mantova, dedica quest'anno un'attenzione particolare all'Europa. In collaborazione con la rappresentanza della Commissione Europea e l'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, il Festival ha in programma Svolazzando per l'Europa, un'isola europea all'interno della rassegna. Ogni pomeriggio alla Loggia del Grano saranno organizzati aperitivi, seminari e giochi sul tema europeo. Qualche esempio? L'aperitivo con l'artista norvegese Annette Diesen e i suoi libri tattili, l'euroaperitivo per esplorare l'Europa giocando e Mantova 2019, appuntamento con l'Europa, in cui si raccoglieranno progetti in vista della candidatura di Mantova a Capitale Europea della Cultura. Per maggiori informazioni visitate il sito segnidinfanzia.com. Lo scorso anno più di 100.000 persone hanno lasciato il Portogallo a causa del tasso di disoccupazione nel loro paese. Da questo numero è partita la riflessione di questa settimana di Euromed. Si parla di migrazione, ma si parla di migrazione interna, di migrazione e integrazione in Europa, di chi si sposta da un paese all'altro all'interno dell'Unione Europea. La mobilità è un valore assoluto da sempre, uno dei punti cardine dell'Unione, però questa mobilità causata da disoccupazione, causata dalla ricerca di un lavoro, si porta poi dietro altre mille problematiche. Quello che vogliamo affrontare oggi per offrire sempre un punto di vista anche positivo, per capire come l'Europa può essere soprattutto e prima di tutto un'opportunità, vogliamo parlare del cosa significhi trovare lavoro in Europa. Lo facciamo con Francesco Greco, funzionario della Commissione Europea del Direttorato Generale Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione. Buongiorno Greco. Buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Mobilità in Europa, cosa vuol dire oggi spostarsi in Europa? E soprattutto ci sono opportunità, nel senso è un valore comunque, è un'opportunità quella di poter muoversi da una nazione all'altra per cercare, per trovare un lavoro? Intanto un chiarimento, se mi permette. Mobilità in Europa significa prima di tutto un diritto, oltre che un'opportunità. È un diritto che abbiamo tutti noi cittadini europei e per il fatto semplicemente di esserlo. Noi siamo cittadini, è un diritto sancito dai trattati e in quanto tali possiamo spostarci sul territorio di tutti i paesi membri dell'Unione Europea. È un diritto che esercitiamo? Non tanto in realtà, non abbastanza, non quanto ci si potrebbe aspettare, in realtà solo una piccola parte dei cittadini europei è mobile, in età lavorativa è effettivamente mobile, però è un diritto che esiste e che i cittadini potrebbero voler utilizzare, per esempio proprio in periodi come questo di crisi in cui spostarsi, andare a vivere in un altro paese potrebbe essere proprio una scelta in vista di, insomma, per cercare opportunità di vita e di lavoro migliori rispetto a quelle che si possono trovare, certo, nel proprio paese. Un diritto che insomma non sempre viene fatto proprio perché comunque vuol dire cambiare vita, cambiare stile, insomma sono scelte importanti, a volte però anche proprio per mancanza di informazione, ed è lì dove voi cercate di perlomeno questa lacuna, cercate di colmarla con diversi strumenti, uno dei quali EURES, questo portale che è una vetrina fondamentale per chi ha intenzione di trovare lavoro in Europa. Sì, certamente, il portale EURES ormai esiste da un po' di tempo, lo ricordo anche a beneficio degli spettatori, degli ascoltatori, eures.europa.eu. Si tratta in realtà di un portale che unisce, è collegato e unisce le offerte di lavoro che sono date dai servizi pubblici per l'impiego di tutti i paesi dell'Unione Europea, più di tre paesi, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, della zona economica europea. Il valore aggiunto di questo portale evidentemente è quello di poter, attraverso un unico portale, avere accesso sostanzialmente agli annunci di lavoro in tutta l'Unione Europea, e questo è un valore aggiunto importante. Però se mi permette di dire, occorre dire una cosa: l'informazione è evidentemente il primo sforzo che la Commissione cerca di fare proprio per permettere ai cittadini di realizzare questo loro diritto, sì. Ma non è soltanto una questione di diritto, è anche una questione di interesse, di interesse economico, perché la mobilità in quanto tale non è può essere un fattore importante anche di crescita economica e se vogliamo, quello che noi speriamo, la nostra ambizione anche attraverso informazioni sulla mobilità aiutare a migliorare le condizioni economiche in generale in Europa e diminuire il tasso di disoccupazione. Perché vede, il mercato del lavoro europeo è estremamente frammentato, lo sappiamo, ci sono tanti ostacoli alla mobilità, alcuni più ovvi di altri, ma una cosa è certa, una maggiore mobilità, questo ce lo dice anche il rapporto sulla crescita annuale pubblicato dalla Commissione Europea, potrebbe aiutare effettivamente a diminuire il tasso di disoccupazione, perché attaccherebbe quelle strozzature, quegli squilibri che esistono nel mercato del lavoro europeo e che fanno sì che esistano dei colli di bottiglia, diciamo, dei bottleneck, così come vengono definiti, che sostanzialmente consistono nell'avere posti di lavoro disponibili per i quali i datori di lavoro non riescono a trovare personale qualificato. Certo. E questo è naturalmente un danno economico, oltre che una beffa per i milioni di disoccupati che esistono in Europa. Assolutamente. E Greco, oltre al portale EURES, che è un po' il punto di partenza, ci sono altri strumenti o altri progetti in atto? Sì, certamente. Ne vorrei menzionare due in particolare, sì, in questo momento, tutti volti a fornire informazioni, chiaramente. Uno di questi è Your Europe, la tua Europa. Dà una serie di informazioni sulle condizioni intanto di vita e di lavoro negli altri paesi, ma anche in generale su quelli che sono chiaramente i diritti dei lavoratori o dei cittadini che decidono di spostarsi, anche su cose estremamente pratiche, non soltanto i diritti che abbiamo, l'esportabilità delle nostre pensioni, diritti sociali o in generale informazioni su altri paesi dell'Unione Europea, anche cose molto pratiche, acquisti all'estero o sia per le imprese che per i cittadini. Invito gli ascoltatori magari anche a digitare la tua Europa, Your Europe, su un qualsiasi motore di ricerca e si avrà la possibilità di trovarlo. Un altro strumento, sì. Solvit, Risolvi lo sarebbero, sarebbe un acronimo, insomma, per cercare di dare l'idea, è uno strumento messo a disposizione per aiutare i cittadini a risolvere eventuali impasse dovute a amministrazioni pubbliche magari non troppo sveglie, non troppo informate, e che creano degli ostacoli innecessari alla mobilità. Perfetto, insomma, strumenti fondamentali, strumenti importanti, strumenti anche facili da usare, perché è importante anche trovare soluzioni e risposte chiare e dirette. Grazie davvero Greco e buon lavoro a lei e tutto il suo team. Grazie. Salve. Europost-it. Integrazione europea, ultimi giorni per visitare la mostra di Urbino. Il 20 ottobre ad Urbino è stata inaugurata la mostra fotografica L'Italia in Europa, l'Europa in Italia. Storia dell'integrazione europea in 250 scatti. Curata dal Dipartimento Politiche Europee, dal Comune di Urbino, dalla Cattedra Jean Monnet e dal Centro Europe Direct delle Marche. La mostra ripercorre in 250 scatti i momenti salienti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, focalizzando l'attenzione sia sugli eventi mondiali più importanti degli ultimi decenni, sia sul ruolo svolto dall'Italia di concerto agli altri stati. L'obiettivo è quello di ritrarre l'Europa e l'Italia, ma anche il valore aggiunto dell'essere cittadini europei. La mostra è visitabile fino al 5 novembre al Palazzo Ducale di Urbino, oppure a Pordenone dal 13 al 26 novembre. Per maggiori informazioni visitate il sito politichecomunitarie.it. È la generazione Erasmus quella che sta andando alla conquista del Parlamento europeo proprio in queste ore. Un bel progetto, si intitola Reloading Europe, il progetto della fondazione Garage Erasmus per riunire tutta la generazione Erasmus europea, la generazione che, l'abbiamo detto tante volte, un po' la colonna portante di questa Unione Europea. E la fondazione italiana Garage Erasmus ha così l'intenzione di creare il primo network degli alunni Erasmus, quelli che hanno viaggiato, quelli che si sono mossi, quelli che hanno fatto mobilità fisica, ma soprattutto di idee, di cervello e di spirito. E proprio in queste ore un campione rappresentativo di questa generazione Erasmus si è messa in moto verso Bruxelles. Li abbiamo fermati, abbiamo chiesto se potevano per un attimo parcheggiare il loro pulmino, e sono qua con noi. Diamo il benvenuto a uno degli ideatori di questo progetto. C'è con noi Francesco Cappè. Ciao Francesco. Buongiorno, ciao. Buongiorno, dove siete? In che area di servizio vi abbiamo? Siamo partiti da poco, siamo in direzione verso Asti dopo Pisa, quindi ci siamo fermati, grazie per la chiamata. Allora Francesco, raccontaci chi siete e cosa state combinando. Sono tre i pulmini, sono tre minivan, siamo 30 persone, 30 professionisti che hanno fatto l'Erasmus, e questo ci lega, siamo molti di più fuori, siamo 200.000 in Italia e 3 milioni in Europa. Circa un anno e mezzo fa abbiamo scritto un libro sulla generazione Erasmus, L'Italia dalle nuove idee. I feedback sono stati tali che ci hanno portato, alcuni di noi, perché ci sono professionisti di varie categorie, insomma, a essere coinvolti in questa avventura, e quindi siamo partiti alla volta di Bruxelles. Oggi la fondazione nasce una settimana fa, Reloading Tour parte oggi, lunedì siamo con altri ex Erasmus, perché questa è un'iniziativa che parte dall'Italia ma ci accoglieranno ex Erasmus d'Europa, domenica sera, lunedì siamo in Parlamento Europeo, e da lì ci auguriamo che che possiamo percorrere un viaggio importante, radunando 3 milioni di teste, che è una generazione non perduta ma strategica, ha fatto bene a dirlo. Francesco, di fatto non portate i vostri curriculum, ma portate le vostre storie a Bruxelles come testimonianza vivente di questa generazione, liquida, di questa generazione che ha fatto della mobilità, di teste, di spirito e di cuore un valore. Andate a Bruxelles a chiedere cosa? Noi andiamo a Bruxelles a iniziare un viaggio. Noi andiamo a Bruxelles perché crediamo che la crisi sia opportunità e non sia solo spread, che l'internazionale sia un qualcosa che vada cavalcato, e pensiamo che l'Europa abbia tanto da dire. Quindi noi andiamo a chiedere un appello a una generazione di 3 milioni di persone che sono gli ex Erasmus, ma chiamiamo generazione Erasmus anche chi ha vissuto esperienze di mobilità diverse, per fare sistema, per unirci. Il nostro obiettivo è contribuire a una società europea più integrata e a fare sviluppo, perché poi noi vogliamo non limitarci a quello, ma creare, mettere insieme le idee, appunto l'idea del garage dell'Europa, e creare sviluppo. Ci sono le professionalità, c'è una forte appartenenza che tocchiamo tutti i giorni tra chi ha fatto l'Erasmus, e allora andiamo al Parlamento europeo a lanciare un appello a questa generazione. Mm-hmm. Lo facciamo attraverso i social media. Siamo appena da 2 o 3 giorni sulle pagine di Facebook Garage Erasmus. Invito chiunque ad andarci, perché insomma con la tecnologia oggi si vede nel Nord Africa, si vede in giro nel mondo, si possono fare cambiamenti culturali che 10 anni fa non si potevano fare. Quindi forza, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Leggevo anche proprio di un'applicazione anche per smartphone, questo Check-in Europe, proprio per ritrovarsi, ma non è una sorta così di meeting nostalgico, proprio fare circolazione di storie, di esperienze. Assolutamente. Tu Francesco, certo. Di cosa ti occupi ora? Io sono stato funzionario dell'ONU fino a un mese fa per 12 anni. Questa cosa è talmente ormai diventata importante, per cui mi dedico anche a questo, oltre insegno al Sant'Anna e faccio consulente. Però insomma ho lasciato dopo 12 anni l'esperienza delle Nazioni Unite perché trovavo questa più vincente, una sfida che mi ha fatto ritornare alle origini della mia scelta di entrare nelle Nazioni Unite. Francesco, prima di salutarci e di farvi andare, visto che Bruxelles vi aspetta, una riflessione finale, nel senso che molte volte si fa confusione, c'è questa strana contaminazione tra la generazione Erasmus, quindi chi ha fatto un'esperienza all'estero e quindi ha una vocazione anche a guardare oltre confine, e i cervelli in fuga. È una correlazione diretta o è una fotografia che può essere malinterpretata? Io ti dico come la penso io penso che il problema dei cervelli in fuga è un falso problema, cioè chi ha scelto di andare all'estero non è un problema come farli rientrare in Italia, è scardinare le ragioni per cui questi sono andati all'estero. Io credo appunto che la visione non sia rientrare in Italia, uscire dall'Italia, ma in questo senso le modalità dell'Erasmus sono appunto per piena mobilità. Il discorso che in Italia siamo in un paese che sta stagnando non da ora ma da molto, e a livello culturale anche un po' l'Europa. Di conseguenza io credo che il problema sia da aggredire quelli che sono le condizioni culturali che portano le persone ad andare all'estero. Poi quando si va all'estero si sta anche bene, a volte non si ha neanche voglia di rientrare. Quindi non ci poniamo il problema di come rientrano i nostri amici che stanno all'estero, poniamoci il problema di sfruttare le risorse che l'Italia ha, che sono immense, e che questo è il vero problema, insomma. Graserasmus.org, il sito ufficiale, 3 pulmini verso Bruxelles. Siete facilmente riconoscibili in strada? Come sono questi pulmini? Sì, siamo facilmente conoscibili. Fateci vedere che ci notate. Abbiamo le mani alzate, ci abbiamo una scritta, le abbiamo addobbati. Vogliamo alzare le mani, e quindi in questo senso l'abbiamo anche fatto visivamente sui nostri pulmini. Che non è un alzare le mani nel senso ci arrendiamo, è un alzare le mani nel senso siamo presenti e ci siamo. Arriviamo. Grazie, buon viaggio a te e a tutti, ciao, grazie, tutti gli altri ciao. Compagni di viaggio. Grazie ciao, a tutti. Ciao. Ciao. Europost-it. Europa e disoccupazione. 20.000 euro alle idee innovative. In Europa i disoccupati sono più di 25 milioni e migliaia di persone svolgono lavoro sottopagati. Il concorso europeo per l'innovazione in campo sociale, organizzato dalla Commissione europea in memoria dell'innovatore portoghese Diogo Vasconcelos, mira a individuare le migliori soluzioni per aiutare le persone a trovare lavoro o a dare una svolta alla loro carriera. Il concorso invita i cittadini a proporre soluzioni per creare nuove opportunità di lavoro. Il concorso assicura inoltre sessioni di tutoraggio per la realizzazione delle proposte preselezionate. Alle tre proposte migliori sarà assegnato un premio di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, cercate Concorso europeo per l'innovazione in campo sociale sul sito ec.europa.eu. C'è tempo fino al 21 dicembre. Hi everyone, I'm Dirk, and together with Zara, I'm the organizer in charge of the academic preparation at the session. So, a couple of days ago, we sent you an extensive email detailing how we would like you to prepare for the IS. And in this short video, I will again explain what we'd like you to do. So, the idea of a fact sheet is that you find at least 10 new sources relevant to your topic and closely examine these. These will be very useful during committee work, as they will provide you with a solid basis. Quello che state ascoltando è la presentazione di quello che sta accadendo in questi giorni ad Amsterdam dal 2 all'11 novembre. Infatti, Amsterdam ospita la 71esima sessione internazionale del Parlamento europeo dei giovani sotto l'alto patronato del Presidente della Commissione europea Barroso. 300 giovani tra i 15 e i 26 anni provenienti dai 36 paesi europei discutono di temi europei. Il Parlamento giovanile europeo è un progetto educativo, indipendente, apartitico, pensato proprio per le esigenze dei giovani cittadini europei e per vivere in prima persona quello che sta accadendo ad Amsterdam. Abbiamo con noi un partecipante al Parlamento. Diamo il benvenuto a Camille Dugai Comencini. Ciao Camille, spero di aver pronunciato bene nome e cognome. Perfetto. Perfetto, grazie. Allora, Camille, tu chi sei e cosa fai ad Amsterdam? Allora, io in questo momento sono ad Amsterdam, alla 71esima sessione del Parlamento europeo giovani, e il mio ruolo è quello di giornalista. Quindi seguirò in particolare un comitato, il Comitato per l'Uguaglianza di Genere e i Diritti delle Donne. Abbiamo qui 18 membri della press e 15 giornalisti, ognuno si occuperà di un comitato. La nostra produzione è una produzione interna alla sessione, avremo 3 numeri del giornale che contribuiranno a rendere a questo un evento unico e comunque a diffondere i valori che l'associazione si fa carico di promuovere. Ma tu per esempio, tu quanti anni hai? 20. E come mai hai scelto di partecipare al Parlamento giovanile europeo? Cosa ti ha spinto a vivere questa esperienza? In realtà è stato un po' casuale, perché il bando è arrivato al nostro liceo e la nostra professoressa di francese ci ha informato di questo progetto, che ci è sembrato immediatamente una cosa interessante. Ma all'inizio non avevamo molte informazioni, è stato solo partecipando alle selezioni nazionali in Italia che abbiamo capito qual era l'impatto che poteva avere questa associazione, e da lì ho deciso di rimanere coinvolta. E adesso ho partecipato a numerose sessioni, tra cui nazionali, regionali e internazionali in questo momento. Ecco, in queste sessioni locali, queste sessioni nazionali, cosa avete fatto? Allora, noi abbiamo due selezioni nazionali l'anno, sì. E adesso stiamo cercando anche di implementare delle regionali, ma è ancora un progetto. E durante queste selezioni nazionali si riuniscono numerosi ragazzi da varie scuole, da tutto il territorio, che dibattono delle tematiche attuali, europee, e alcuni di questi ragazzi vengono selezionati dal nostro comitato e mandati poi all'estero per partecipare a eventi internazionali, dove invece si riuniscono ragazzi di 36 paesi europei, appunto. E qual è lo spirito che si vive? Lo spirito che si vive è quello di un incontro di menti che ha un grande potenziale umano, secondo me, e non necessariamente tutti conoscono già le istituzioni europee, non necessariamente tutti sono già informati, ma sono tutti ragazzi con un grande interesse, una grande curiosità, ed è questo che questa è la bellezza, insomma, del Parlamento europeo giovani. Guarda, Camille, sfrutto la tua presenza e ti chiedo un aiuto, colgo proprio l'occasione. Un paio di giorni fa sono stato in un liceo, ho fatto un incontro con i ragazzi di terza liceo, quindi del quinto anno, sì. Sull'Europa, Un ragazzo, come solo voi sapete fare, no? Quando siete diretti, spontanei e così anche un po' cinici, ha alzato la mano e mi ha chiesto: ok, belli questi discorsi sull'Europa, belle le istituzioni, però per me, per la mia quotidianità, nella mia vita di tutti i giorni, cosa serve l'Europa? E tu che risposta avresti dato? È una domanda che ci si pone anche un po' di frequenza di questi tempi, visto che viene rimessa molto in questione l'Unione e l'integrazione europea in questi tempi di crisi. Io che risposta avrei dato? Direi che per la nostra generazione, in particolare forse la prima generazione per cui l'Europa ha un impatto così grande, è proprio una questione di vita quotidiana, di uscire un po' da questa mentalità nazionalista e cercare un'integrazione un po' più ampia, e penso anche che un'integrazione maggiore sia la via di uscita dalla crisi. Questa è un punto, è la mia opinione che può essere dibattuta. Certo, ok, farò mia la tua riflessione, ok, così. No, perché adesso te l'ho fatto a mo' di battuta, ma neanche tanto, però insomma sono riflessioni apparentemente banali che però dietro nascondono un mondo, un mondo sì, di cui voi poi state proprio parlando in queste ore, durante queste sessioni. Diamo il sito, che è amsterdam2012.eu, per conoscere quello che combina il Parlamento Giovanile Europeo. Camille, grazie davvero per essere stata qua con noi e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, ciao, buon lavoro. Buon lavoro, ciao. Europost-it. Jam Session, scambio in Ungheria per comunicatori sociali. L'associazione Scambi Europei cerca 6 partecipanti e un leader per prendere parte allo scambio che si terrà in Ungheria dall'8 al 16 novembre. Basta avere tra i 18 e i 25 anni ed essere appassionati di culture straniere e comunicazione sociale. Come pubblicizzare in modo efficace prodotti locali nelle comunità autoctone e al di fuori di esse. I partecipanti, divisi in gruppi multiculturali, dovranno poi inventare una strategia comunicativa ad hoc utilizzando il teatro, video, foto o manifesti. Ai ragazzi selezionati verranno garantiti vitto e alloggio e il 70% della spesa per i trasferimenti. Per informazioni dettagliate sulla destinazione e sul programma Day by Day, visitate il sito scambieuropei.info. Il numero degli agricoltori in Europa è diminuito drasticamente. Abbiamo raggiunto un punto in cui solo il 6% di tutti gli agricoltori dell'Unione Europea ha meno di 35 anni. La situazione è aún más alarmante en algunos Estados miembros, donde los jóvenes solo representan el 3% de la comunidad agraria. For a continent which embodies the key value of sustainability, this is not a promising figure. Tenemos que actuar ahora. To guarantee that European agriculture delivers the quality and competitiveness that European society expects in food production. If we do not stop the imminent age-related crisis, then environmental protection, job creation, biodiversity conservation and food security will be under threat. The lack of generational renewal in farming will lead to an array of other problems too. La sostenibilità, la prosperità e la diversità delle aree rurali saranno a rischio. However, these challenges can be overcome. And young farmers are the solution. È uno spot, è un video del Consiglio europeo per giovani agricoltori sul futuro dell'agricoltura in Europa e sull'Europa che ha sempre più bisogno di giovani agricoltori. Abbiamo scelto questo spot per introdurre il prossimo ospite. Si parla tanto di agricoltura, si parla tanto di ritorno all'agricoltura. Ne abbiamo parlato sulla Grecia qualche mese fa, è uscito un articolo proprio in questi giorni, abbiamo trovato su presseurope.eu, il titolo è Crisi, giovani laureati spagnoli si danno all'agricoltura. Quindi un ritorno di laureati, un ritorno di anche di giovani che non hanno tradizione contadina alle spalle, ma che cercano piccoli appezzamenti di terreni, piccoli allevamenti, riescono a vendere prodotti di qualità, soprattutto utilizzando la rete, quindi contaminando quelli che sono quello che è l'antico, quello che è la tradizione con il moderno, con l'innovazione, per capire se veramente è un fenomeno che sta muovendo qualcosa in Spagna. Abbiamo invitato Pedro Narro, che è rappresentante e coordinatore a livello internazionale per i giovani dell'Organizzazione degli Agricoltori Spagnoli. Buongiorno Pedro. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato. Buongiorno. La... sì. Allora, c'è davvero un ritorno in Spagna dei giovani, soprattutto, e anche giovani laureati verso la campagna? Sì, sì, questo è proprio. Innanzitutto vorrei ringraziare per darmi la possibilità di parlare della situazione in Spagna. È vero che nel corso di quest'ultimo anno ci siamo resi conto di questo fenomeno. È un fenomeno reale, è un fenomeno anche nuovo che non l'aspettavamo, ma è vero che ora dei giovani laureati in economia, in giurisprudenza, e ingegneri, oggi vedono che può essere un futuro nell'agricoltura e ci mostrano che c'è un interesse a diventare agricoltori. Pedro, ma è solo così una valvola di sopravvivenza, quindi è una sorta di ultima spiaggia, o è anche una riscoperta comunque di ritmi più lenti, di attenzione al territorio, di attenzione anche a un'economia più sostenibile? Io direi che dietro di questa scelta che stanno facendo un po' i nostri giovani in Spagna, c'è un po' due ragioni. Primo, è vero che c'è una crisi economica molto forte, che c'è anche una disoccupazione tra i giovani incredibile, per esempio in una regione come l'Andalusia, con una tradizione agricola molto forte, la disoccupazione tra i giovani va al di là del 60%, quindi i giovani cercano di sopravvivere e vedono che forse l'agricoltura è un'attività produttiva reale che gli può offrire delle possibilità per il futuro, ma anche è vero che tanti altri giovani lo fanno perché in questi ultimi anni la mentalità in Spagna, la mentalità in Europa, soprattutto la mentalità in Italia, perché conosciamo bene qual è la situazione in Italia, ora c'è una mentalità diversa e veramente i giovani oggi cominciano a vedere la campagna come un luogo dove vivere e lavorare con soddisfazione, e questo 5 anni fa non era possibile, almeno nel mio paese. Certo. Pedro, e i giovani immagino si rivolgono anche a voi come associazione di riferimento, e cosa chiedono? I giovani, certo che, perché abbiamo parlato di questa scoperta, riscoperta o rinascita dell'agricoltura, ma i giovani, tutti i giovani, quello che c'hanno il legame con la terra, il legame con la famiglia, c'hanno bisogno di aiuto, sì. Soprattutto quelli giovani che non c'avevano questo legame, come lei ha detto all'inizio, e che ora hanno questo interesse per l'agricoltura, hanno bisogno di aiuto. Ci vengono tantissimi giovani nel corso di questi ultimi 6 mesi, ci sono tantissimi giovani che sono venuti da noi, dalle organizzazioni agricole, soprattutto per chiederci consiglio, hanno bisogno di consiglio tecnico, ci hanno chiesto anche di offrirgli una formazione adatta ai loro bisogni, perché hanno bisogni diversi da quelli che lavorano già nell'agricoltura, e soprattutto, è la cosa più importante, ci hanno chiesto di aiutarli con la burocrazia, perché oggi diventare giovane agricoltore in Spagna significa riempire migliaia di documenti durante 1 anno e mezzo, 2 anni, e questo non è possibile. Questo bisogna cambiarlo tra tutti. Questo è assolutamente un freno anche all'entusiasmo. E quando parliamo di giovani che tornano in campagna, di giovani agricoltori, ci sono coltivazioni preferite rispetto ad altri? È più l'agricoltura classica, è più l'agricoltura magari invece di prodotti specifici, è più l'allevamento? Forse è un po' presto per dire quale sia l'orientamento di futuro di questi giovani che scoprono ora l'interesse per l'agricoltura, ma soprattutto è vero, noi ci siamo resi conti parlando con quelli giovani che sono venuti da noi, che c'è l'interesse per l'innovazione, sì. Che c'è l'interesse anche per fare una piccola agricoltura con un modello diverso dal modello solo produttivo che c'era qualche anno fa in Europa. Loro vogliono fare della agroecologia, vogliono fare altre cose nuove, e soprattutto quello che vogliono loro è un po' di fare l'applicazione di tutta quella conoscenza che loro possono avere, perché sono delle persone che hanno una formazione molto forte. Loro vogliono fare delle cose diverse, ma non soltanto un'agricoltura a livello tradizionale, soprattutto vogliono fare un'agricoltura che ci abbia un legame con la terra, per quello i prodotti della terra, i prodotti con la denominazione di origine, rispettare l'origine, questo ci cercano di farlo i giovani. Pedro, come mai che tu parli così bene l'italiano? No, grazie, ma io ho avuto la possibilità di studiare l'italiano e anche siamo sempre in contatto con gli amici italiani, perché parliamo tanto con loro, perché alla fine, anche se siamo paesi diversi, l'Italia e la Spagna, alla fine le sfide sono sempre sfide comuni. Mm-hmm. Anche tu generazione Erasmus? Pure io ho fatto anche la generazione Erasmus come tanti altri spagnoli. Una delle nostre scelte, sempre una delle scelte prioritarie è l'Italia, certo. Grazie davvero Pedro, in bocca al lupo, perché insomma le sfide che vi aspettano sono tante, belle e stimolanti, ma che c'è bisogno di tanto lavoro. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie per l'interesse, grazie. Alla prossima. Europost-it. Immagina tutta l'acqua, il concorso per videomaker sostenibili. Lo sapevate che per produrre una pinta di birra servono 170 litri d'acqua? Per una tazza di caffè 132 litri e per un paio di scarpe di cuoio ne occorrono ben 8547? Le risorse idriche sono limitate e devono essere salvaguardate diffondendo informazioni e buone pratiche per la produzione e per l'uso quotidiano. Generation Awake, la campagna lanciata dall'Unione Europea per sensibilizzare i cittadini sull'uso responsabile delle risorse, ha organizzato il concorso Imagine All the Water. Per partecipare, basta creare un video mostrando quanta acqua serve per produrre oggetti e alimenti d'uso quotidiano, l'hamburger, la birra, il caffè, il cioccolato e le scarpe. I 5 video vincenti, uno per ogni prodotto, verranno premiati con videocamere HD e saranno mostrati sul sito web Generation Awake. Per maggiori informazioni, visitate i siti imagineallthewater.eu e generationawake.eu. Questi sono i nostri Europost-it, le nostre dritte, le nostre segnalazioni che potete ritrovare sia sul nostro sito radio24.it, da dove potete riascoltare la puntata in podcast, oppure sui nostri social network, Facebook e Twitter. Ringrazio tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita, Ine e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica. E voglio chiudere, visto che oggi, come tante altre volte, abbiamo parlato di Erasmus, con questo documento che abbiamo trovato su una bacheca, l'Erasmus Student Network di Trieste, Bora, istruzioni per l'uso dedicate ai turisti e ai nuovi residenti. È quello che gli studenti, appunto, triestini hanno scritto per i colleghi. Sono 20 punti per riconoscere la Bora. 1. Se i vetri vibrano è Bora. 2. Se i coppi dei tetti vibrano è tanta Bora. 3. Se tremano i muri, no, non è terremoto, è Bora. 4. Se dovete uscire il piumino, non basterà. 5. Se dovete uscire il piumino del letto, basterà. 6. Se piove, l'ombrello non vi servirà. E di punto in punto fino al punto 20, che dicono i triestini, considerano il tenersi sui pali della luce una grande debolezza. Istruzioni appunto per la Bora, per studenti Erasmus. Chiudiamo così questa puntata dell'Altra Europa. Grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia. Ancora ciao da Federico Taddia.